In realtà non ci saranno benefici dalla costruzione del ponte, sia per quanto riguarda il lavoro dei cittadini messinesi e calabresi, perché i lavoratori direttamente o indirettamente occupati nella costruzione del ponte sarebbero circa 15.000 per soli 8 anni, quindi il lavoro determinato a tempo determinato, mentre attualmente gli impiegati a tempo indeterminato nel servizio di traghettamento sono circa 5.000. Inoltre ormai i trasporti prediligono le autostrade del mare, infatti il traffico dei veicoli è diminuito e nei prossimi 30 anni si prevede diminuirà ancora. Per quanto riguarda il resto dell'Italia, in realtà anche il passaggio attraverso il ponte non sarà molto, cioè non limiterà di moltissimo il tempo, perché servirebbero circa 60 minuti per arrivare da Reggio a Messina attraversando il ponte. Studi comunque scientifici a proposito del discorso geologico, non è banale il fatto che la sponda siciliana e quella calabrese non solo si allontanano con una velocità che è molto alta rispetto alle normali velocità dei movimenti tettonici, ma anche hanno dei movimenti di basculamento, cioè di innalzamento e abbassamento delle coste, per cui che renderebbero molto instabile il ponte. Addirittura alcuni scienziati sostengono che in meno di 200 anni il ponte andrebbe a distruggersi, a rompersi. E poi la seconda cosa che volevo sottolineare è il fatto che 1500 famiglie da una sponda e dall'altra dovranno essere sloggiate dalle loro case. Per quanto riguarda i problemi economici, insomma, la Sicilia ha ancora bisogno di molte infrastrutture e i soldi utilizzati per il ponte, che dovrebbero essere utilizzati per il ponte, potrebbero invece essere utilizzati per le linee ferroviarie. Ancora abbiamo un solo binario per l'autostrada Messina-Palermo che ancora non è stata finita, e poi per esempio per gli acquedotti che sono rotti e molto spesso le città siciliane hanno carenza di acqua, eccetera. Comunque, per quanto riguarda le iniziative, il Messina Social Forum già da 3 anni organizza un campeggio contro il ponte sulla costa messinese. L'anno scorso è stato contemporaneamente sulla costa messinese e in quella calabrese. Anche il meeting di quest'anno, come gli altri, sarà organizzato più o meno in questo modo. Nella mattina ci saranno delle aree tematiche, quindi dei dibattiti, seminari dibattiti, e nel pomeriggio dei workshop aperti a tutte le organizzazioni, i gruppi che si battono contro il ponte.